voi tutti siete un po' monopolizzati da sta roba, chi più chi meno, chi a modo suo, insomma, non so, per esempio io parlavo con Fabio un po' di mesi fa che mi diceva, sì, quando io ero più piccolo, in terza media, ho avuto un periodo no con i telefoni, che stavo sempre attaccato a giocare, a giocare, a giocare, ma perché? Perché c'era un lockdown, perché c'era un Covid. Sì, me l'hai detto tu, ne abbiamo parlato anche varie volte di questa cosa. Comunque, vabbè, più o meno, dai. Più o meno il concetto è quello, no? Ecco, allora, cosa ne pensate voi un po' intanto dell'utilizzo dei social e dei telefonini oggi? E perché è così esasperato, no? Sta roba, cioè, come ve la vivete voi? Non lo so, chi ha qualcosa da dire lo dica. Ma io mi sono messa al blocco del telefono di 40 minuti al giorno, se no lo vedo troppo. L'ho messo sia da Instagram, però dal telefono no, dal telefono poi ti blocca l'app, cioè la grigia, non la puoi aprire. E TikTok non ce l'ho disinstallato, quindi anch'io. I'm a better person, no. Non sono mai stato buono con i limiti, con... Ok, però i social li usi tanto? Da fruitore, sì. Non è che posto più di tanto sui social. Uso molto YouTube, quindi quello sì. Che comunque sicuramente è meglio perché... Cioè, ok che ora hanno implementato anche loro i contenuti, diciamo, short form, però principalmente sono video lunghi, quindi comunque la soglia dell'attenzione la mantieni a un certo livello. Non ho preso troppo l'abitudine, esatto, dei Reels, non ne guardo troppo, però comunque scorro molto. Quindi, boh, capita che di tempo ne sprechi, ma... Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre. Quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tonnati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dei piedi di balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e mi ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati, così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu, proprio tu. Sei il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Accusavi il vitello dai piedi tonnati e per questo i tuoi piedi saranno asportati. Ma la legge prevede una pena aggiuntiva per questo reato, l'ascolto forzato di Bulun Vagi Sudureule di Gai Lassene Andumehedai Kadira. Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più i piedi che invoca pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento, son l'orsetto Ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo. Amico orsacchiotto, ti vedo barzotto e sento uno spinotto. Non avere paura mai. Se questa avventura da un lato mi attira, dall'altro mi spaventa un po'. Del tuo giovane ma corpo. Questa in fondo è la vita mia. Morino. E io vivo con gioia. Corpo nato per l'amore. Questa mia condizione. vitello busone, perché ho capito che io, solo io, sempre io, anche io, nient'altro che io, proprio io, ero il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa, ma tu mi hai trasformato in vitello busone, quel buso marrone, che bello sapere che c'è. Composto una canzone salsa. Egli e le storie tese, il vitello dai piedi di balsa. Comunque ragazzi, dicevamo, hai fatto un ragionamento che mi interessa molto, che è quello del video lungo, no? Cioè il video lungo e la soglia di attenzione, quindi la soglia di attenzione su un video lungo sicuramente sì, denota un qualcosa di diverso da quello che è invece il reel, che dura quei 10-20 secondi e sì, poi... Boh, sì. Si chiama short attention span. E lui ne è affitto. Comunque... No, vabbè, perché c'è... secondo te le persone hanno questo bisogno, questa... come lo chiamiamo? Come la chiamiamo? Dipendenza dal telefono? Addiction. Ma secondo me in molti casi è anche una mancanza di boh. Non sai cosa fare, è la prima cosa che hai davanti. È molto facile da usare, hai tutte le funzioni lì. Adesso più che altro del contesto in cui viviamo adesso, cioè di come siamo messi a livello di società odierna. Come siamo messi a livello di società? No, cioè, è sdoganata l'ignoranza, che per carità, cioè a volte ci sta, nel senso anch'io faccio il coglione, però abbiamo il nostro genio qua con noi che adesso ci argomenta questa cosa della società odierna. Che momento stiamo vivendo? Adesso sembra un po' tipo alla Joker, di su queste cose qua. No, non voglio fare il moralista, cose di questo tipo, però nel senso lo noto anche comunque tra i miei amici, tra gente che conosco, sia della mia età, ma sia anche ovviamente online, in tutto quello che vedi anche in TV, in primo luogo nei politici. Cioè adesso ci sono quei rincoglioniti che saltellano sul palco, chi non salta comunista è, ma con il ministro della cultura San Giuliano col braccialetto siete solo dei poveri comunisti. No vabbè, reprimo i miei istinti. Bravo, reprimiamo gli istinti, perché ha detto delle cose che aberranti, agghiaccianti. Abbiamo per forza dovuto tagliare perché insomma, e questa è comunque una radio. No, era il ministro della cultura, era, si è dimesso. Si è dimesso, si è dimesso. Io confesso che dovrei seguire di più l'attualità della politica, comunque lo faccio, però dovrei approfondire di più perché effettivamente è utile, ma già solamente da quello che si vede, che poi ti guardi un TG di 5 minuti ti rendi conto della situazione in cui siamo. Cioè non è possibile che la gente che ci governa e che continua a governarci, che continuerà a governarci probabilmente visto che la gente continua a votarlo, sia di un livello culturale così infimo. Questo è letteralmente il motivo per cui a giugno non si è raggiunto il quorum delle votazioni, perché la gente a votare non ci va proprio. La gente vuole andare al mare piuttosto. Comunque ragazzi, torniamo indietro di uno step. Quindi la società che stiamo vivendo, il momento culturale veramente basso che stiamo vivendo nel nostro la stato, Bernini che ritorna che dà dei al poveri fatto... comunisti agli studenti che non c'entrava nemmeno nulla il comunismo con quello che stanno parlando. Che poi sta storia che il comunista è un insulto. Da quando è un insulto comunista? Sì, cioè, allora, quando al governo esatto, sono i fascisti. No, ma porca puttana, allora essere comunista, per quanto magari tu non sei d'accordo, poi io non saprei bene se definirmi comunista o no, è una cosa un po' complicata al giorno d'oggi, però se tu non aderisci a quel specifico filone ideologico, politico, non c'è problema, non aderisci. Di fatto non è un reato essere comunista in Italia, non è un insulto. No, fascista è un insulto ed è un reato perché è anticostituzionale, quindi... Carissimi! Bene, comunque torniamo indietro di quel passo che dicevo. Andiamo quindi al discorso telefonini social per i più piccoli di voi, no? Perché voi avete già anche la capacità di organizzarvi la vostra vita, quindi uscire da soli, fare cose da soli, senza il controllo dei genitori, senza il dovere di essere per forza presente su un telefono, le geolocalizzazioni, piuttosto che la mamma che mi chiama e devo rispondere per forza, eccetera. Come mai, secondo voi, questi ragazzi in Svizzera hanno ben pensato di fare un video a un soffitto che prende fuoco piuttosto che scappare, aiutare qualcuno, chiedere aiuto? Io penso che probabilmente, poi non so per certo, però immagino fosse più che altro perché più qualcosa è estremo e più sui social fa diciamo scalpore e genera esatto, visualizzazioni e ha un audience più, ok, come dire, ampio, esatto. E quindi fa parte della malattia di cui stiamo parlando, praticamente, la malattia social. Oppure semplicemente, anche magari per mostrare agli amici, pensando di non essere in questo pericolo estremo. E sottovalutato la cosa, secondo me. Esatto. Cioè, non si sono resi conto che... Non pensavano forse che sarebbero morti. Esatto. Ecco. Ragazzi, su tutti i commenti che sono stati fatti sui social su questo avvenimento di Capodanno, no? Cerchiamo di capire perché... E vedere se c'è un modo da parte nostra, di noi adulti sicuramente, ma anche di voi ragazzi un po' più grandi, nel educare i più piccoli a capire, cioè magari tante volte a guardarsi in faccia e parlare. Io a voi vi conosco bene, no? Quindi so che siete capaci tutti, da chi ha 15, ma anche 11, 12 anni, fino a che ne ha 20, del mio gruppo di ragazzi, a parlare, stare insieme, suonare, cantare, relazionarsi. Invece molti di questi ragazzi non ne sono in grado, ok? Per esempio la nostra ameba qua in studio ancora non si è relazionata a noi, se non per alzare il dito medio. Togliere il telefono, come diceva la mascotte, secondo me non risolve niente, anche perché quando togli un telefono... E va sensibilizzato l'utilizzo, si è svegliato. Come lo risolvi il problema? Non vieti, perché vietare abbiamo cerchi visto che non funziona. Per quanto c'è complicato come... Ma a me piacerebbe sapere come voi, che avete solo 3, 2, 3, 4 anni in più di questi ragazzini, come glielo spieghereste? Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me The sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Led Zeppelin con Thank You. Allora ragazzi, torniamo un attimo in studio a parlare della questione telefonini, social e tutto quello di cui stavamo discutendo, che prende sempre strade meravigliose ma diverse dall'argomento iniziale con voi, perché effettivamente avete la vostra da dire su vari argomenti. Ma stavamo dicendo appunto il rapporto che hanno i più piccoli col telefonino, quindi che voi avete già una modalità, no? Più da adulti, perché siete più grandi, perché avete una conoscenza del mezzo telefono che è diversa da quella che avevano i più piccoli. Quindi tu ti sai relazionare ai tuoi coetanei, anche più piccoli e più grandi, per questo sì, sì. E non passi la tua vita attaccata a un telefono. Passi la tua vita attaccata a un telefono, forse se stai da solo in casa per giorni, ti rompi le scatole, non sai che fare, ok. Però se sei fuori con i tuoi amici, non stai col telefono, parli con i tuoi amici. Sì, vabbè, poi anche come dicevi prima, per me, penso anche per molta altra gente, che eravamo in un periodo cruciale della nostra vita, che è arrivato il Covid, e lì ci ha un po' scombussolati tutti. Sì. Quindi quello sicuramente ha fomentato le dipendenze. Secondo me, purtroppo, anche se sono pochi gli anni di differenza tra noi e dei ragazzini più piccoli, come era la mascotte. E purtroppo in realtà, cioè, noi abbiamo avuto il telefono che eravamo già più grandi. Quando eravamo piccoli noi c'era tipo l'iPhone 4, non lo so, cioè noi non abbiamo avuto subito questa cosa dei telefoni. Io sento adesso, dopo che, non so, magari i bambini hanno il telefono tipo dalla seconda, terza elementare, che secondo me è una follia, perché io il telefono l'ho avuto in prima media e non ho avuto WhatsApp prima della terza media. Tu che rapporto hai col telefono? Sei dipendente dai social? Rapporto, no, ma i miei pensano di sì, quindi state tranquilli che sono solo pare dei genitori. Sono solo pare dei genitori, è arrivato lui, siamo perfetti. Io dicevo, cioè, come dicevo prima, non avrei una soluzione, però so che sembra un po' radicale come cosa, però sì, con qualunque cosa, qualunque problema, o quasi qualunque problema di cui si parla al giorno d'oggi, si può ricondurre al modello economico. Al modello economico e sociale che abbiamo oggi nel nostro mondo, che vige nel nostro mondo. Quando si come priorità si ha solamente il profitto, il benessere umano viene secondo, cioè il mondo dei social media come priorità ha quella di tenerti attaccato, no? Quindi non è tanto colpa tua che sviluppi la dipendenza. Poi ovvio, cioè, è difficile parlare delle cause delle dipendenze, perché ognuno ce ne ha innumerevoli che si vanno a mescolare. Di fatto, se il social è fatto in modo da farti sviluppare questa dipendenza, la colpa principalmente è dei creatori del social, è di chi ci guadagna con la tua dipendenza. Io punterei più a risolvere come sono strutturati i social. È molto, molto difficile, molto complicato. Eh beh, certo, perché poi, è tutto un meccanismo fatto apposta. Certo, ma perché non è solamente poi i social, è un tassello del sistema capitalistico. E mi fa piacere che a 19 anni ci sia in studio con noi qualcuno che ragiona così, e tutti quelli che sono qua ragionano così. Mi sono espresso un po' così, però... Ragazzi, sono appena arrivato, buonasera, come state parlando? Ah, è la nostra amica! Non sei appena arrivato, eri qui fino all'inizio, solo che non stavi ascoltando. No, si stava ascoltando, ma... E dato che la nostra Meva si è ricongiunta a noi, la porta dello studio, non so se avete sentito, ma si era aperta con i batteristi folli dentro che suonavano, quindi qui il caos sta per esplodere veramente di più di quello che avete sentito finora. Noi ne approfittiamo per salutarvi. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!